tirano i soldati, macabra istantanea, pronti alla partenza. C'è anche un padre di famiglia, sicario dello Stato, morti che camminano, croci in un prato. Per la guerra dei potenti, uccidere un fratello, l'attimo del colpo che rimbomba nel cervello. Guerra de los poderosos, matando inocentes, es el pueblo el que siempre pierde. Disobbedire puoi farlo soldato, non è forse meglio del sangue versato. Obedece a los soldados, muerte o gloria.